Un fitto mistero. Intanto, come lo descriveresti in breve questo lavoro? Lo descriverei come un libro in cui il racconto di alcuni delitti famosi degli ultimi 200 anni, perché andiamo fino all'Ottocento, si sposa con le immagini storiche, immagini d'epoca e anche immagini fotografiche realizzate per l'occasione da Contrasto People, cioè da gente di questa magnifica casa editrice di immagini. Quindi un tentativo di farsi delle domande e darsi anche delle risposte intorno a perché certi delitti ci attraggono più di altri e che cosa troviamo, vuoi di morboso, vuoi di interessante, vuoi di seducente addirittura in certi racconti del male. Senti, i delitti in questione, rimangono nel campo della cronaca nera o interessano anche altro? Ma io queste domande che mi faccio, che sono le domande da cui ho preso le mosse per questo libro, abbiamo preso le mosse per questo libro in delitti di famiglia, delitti di passione, ma anche delitti di interesse, anche delitti di mafia, anche delitti politici. E c'è un capitolo dedicato al complotto. Eccomi, a proposito di complotto e mistero, mi sembra che questo vada di pari passo anche con la storia del potere in questo paese. Ma in Italia si è verificata spesso una intersezione tra fatti di sangue, fatti criminali e cambiamenti politici. Tutta la stagione del dopoguerra è stata segnata dalla violenza politica, la strategia della tensione ha inaugurato con la strage in Piazza Fontana nel 1969, una stagione che ha coinciso con l'epoca di grandi cambiamenti, di grandi sussulti. Il fattore violenza è intervenuto costantemente come fattore di inquinamento nella storia della nostra Repubblica, sicuramente fino al 1993-94, fino alla stagione delle stragi. E dello stesso si può dire anche dei rapporti spesso ambigui, spesso scontornati, di difficile definizione tra zone grigie del potere, organizzazioni criminali come la mafia, la camorra e l'andrangheta. E questo cerchiamo di raccontarlo attraverso le immagini e il racconto di alcuni di Senti, come hai proceduto rispetto anche al reperimento dei materiali? con la fiducia totale e assoluta nel reparto iconografico, c'è cioè Alessandra Mauro, Roberto Koch e appunto ho detto il Contrasto People, quello è campo assolutamente loro. Da questo punto di vista è un po' come lavorare per una sceneggiatura cinematografica, io scrivo il testo ma so che poi il responsabile dell'immagine sarà il regista, in questo caso il regista è Contrasto. Ecco. Per quanto riguarda i materiali ho scelto quei delitti che a me per primo come cittadino ma anche come scrittore hanno posto delle domande a cui ho cercato di dare delle risposte. Senti, proprio rispetto alla ricerca dei materiali, hai trovato qualcosa che ti ha sorpreso? Ci sono tante cose che ti sorprendono quando scavi nella storia, perché la nostra memoria procede per stratificazione, delle cose le dimentichi molto facilmente, alcune cose non le hai vissute. Vi posso dire che ho notato, non so se altri l'hanno fatto, ma insomma una singolare coincidenza tra i delitti di Jack lo Squartatore, il primo grande serial killer raccontato nell'evo moderno, e il successo dei romanzi di Sherlock Holmes. E questa è una coincidenza veramente curiosa e singolare. Sherlock Holmes, il primo romanzo di Sherlock Holmes viene pubblicato, passa del tutto inosservato, tra la prima edizione dello Studio in Rosso e la sua ristampa di 2 anni dopo esplode il caso di Jack lo Squartatore e il fatto criminale diventa il fatto del giorno e da lì resterà nel corso del tempo uno dei più grandi misteri. E non so quanto consapevolmente Conan Doyle e i suoi editori ne hanno tratto sicuramente giovamento. Quella dei delitti di sangue è una storia ciclica o è cambiata nel corso dei secoli? Quello che cambia molto spesso, che ha avuto un'accelerazione potentissima negli ultimi 150 anni, è stata la nostra percezione di questo tipo di delitti che sono sempre esistiti. Balzac diceva che ci sono solo due moventi che spingono un essere umano al crimine, sono l'oro o legge ancora valida. Noi crediamo di aver inventato e spesso deploriamo la spettacolarizzazione della giustizia, ma è un fenomeno talmente antico da essere pressoché eterno, immanente alla giustizia stessa. Oh Giancarlo, dopo la letteratura ti sei interessato artisticamente anche ad altri campi. Durante questa stagione a cosa ti stai dedicando? Quali sono anche i progetti? C'è un romanzo in uscita in primavera, la data verrà decisa immediatamente nei prossimi giorni per Einaudi Stile Libero. C'è già un titolo, si chiamerà La gente del caos. C'è un'antologia di racconti a tre con Massimo Carlotto e Maurizio De Giovanni che uscirà poco dopo il romanzo per i tipi di Rizzoli e adesso mi sembra abbastanza per il 2018. Ecco. Ecco, a proposito di questo lavoro, e com'è stato il rapporto con gli altri? Con gli altri scrittori? Sì. Io sai, già da una decina d'anni pratico queste forme di scrittura comuni, non solo sì. Collettive, nel senso che collettiva è la scrittura con Carlo Bonini per Suburra e per Notte di Roma, li abbiamo proprio scritte insieme, nelle antologie da Crimini a Giochi criminali, passando per Giudici e per Cocaina, fino a questa Sbirri con Carlotto De Giovanni. Si dividono i compiti, cioè si individua un tema e poi ciascuno scrive naturalmente per suo conto, secondo il suo estro e la sua volontà. E poi i risultati sono quasi sempre miracolosamente omogenei, anche al di là delle intenzioni. Dipende dal fatto di conoscersi, di frequentarsi, di essere amici, di appartenere a un humus culturale comune che è quello poi del noir italiano. Allora Giancarlo, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto a questo punto. Ci vediamo alla presentazione allo Hub Culturale Mobile. A presto, ciao Giancarlo. Ciao, ciao.